Ciao a tutti, sono Stefania e sono qui sempre Radio Big World insieme ai miei compagni di viaggio e questa è la puntata numero 22 del Popolo di Barabba. Ma chi se lo sarebbe aspettato, la puntata 22. Oggi mi piacerebbe affrontare con voi un aspetto sempre sull'educazione, come sapete, prendendo a spunto due notizie che ho sentito alla televisione in questa settimana. Allora, si parla di educazione, sport e educazione. A Torino un allenatore ha sospeso la partita dei più piccoli, i cosiddetti pulcini, credo che abbiano 10 anni, perché un babbo, un genitore dalla platea, inveiva sulla squadra avversaria del figlio, incitando il figlio a fare delle cose violente contro l'altra squadra. La solita frase che ormai ci ripetiamo da secoli, almeno io e tantissimo che la sento, spezzagli le gambe, fagli del male così non corre più. L'allenatore di una certa età, grande allenatore devo dire, a quel punto ha sospeso la partita, minimo, la cosa minima che poteva fare era questa. Attenzione, non tutti lo fanno, credo che sia stato l'unico a prendere un'iniziativa del genere, anche perché poi l'associazione sicuramente farà delle ritorsioni contro l'allenatore, perché le partite, i giochi devono andare avanti a tutti i costi. Questo allenatore, intervistato su Rai 3, telegiornale di Rai 3, ha detto una cosa molto semplice, cioè almeno a noi risulta semplice, probabilmente ai più no. Se io non prendo provvedimenti su queste iniziative così deleterie, non ci lamentiamo poi se i nostri figli a 15 anni prendono a ceffoni gli insegnanti. Non ci dobbiamo lamentare, perché se gli consentiamo, anzi gli incitiamo a fare violenza, è ovvio che questi bambini cresceranno con questo input, con questa voglia di fare violenza per sopraffare l'altro. Questo è un episodio. L'altro episodio è, purtroppo, ahimè, l'ho sentito al TG3, anche questo a livello nazionale, TG3 nazionale, non quello regionale, allo stadio di Levane, all'associazione Leona di Levane. Anche lì bambini di 8 anni che giocavano, facevano la partita, quindi soli i pulcini, di 10 anni, erano bambini del 2008. Un babbo, quando ha visto che nella lista di chi doveva giocare non c'era il nome del suo bambino, cosa ha pensato questo babbo genitore? Genitore, a me mi si accappona la pelle quando penso a questo, genitore. Ha pensato bene di andare dall'allenatore, insultarlo e poi, quando non gli è bastato insultarlo, è passato alle mani, mandandolo all'ospedale. 7 giorni di prognosi. Ora la domanda che mi faccio è questa: ma chi sono questi genitori? Cioè, con quale diritto fanno i genitori, la dico grossa, la sparo grossa, però perdonatemi, ma sono atteggiamenti che non si possono più tollerare. Poi vediamo, insomma, altre notizie, ragazzi violenti, eccetera. E ci lamentiamo? Se questi sono i genitori, il minimo che ci possiamo aspettare sono questi atteggiamenti. Nel 2009, insieme ad alcune amiche e colleghe, erano insomma psicologhe e educatrici, abbiamo ideato un progetto che si chiama Il Bello dello Sport. Ancora lo stiamo riproponendo nelle scuole. Il Bello dello Sport è chiaramente un titolo con un sottofondo di ironia, ovvio. E Il Bello dello Sport era un progetto perché avevamo intuito che nelle associazioni sportive c'era qualcosa che non funzionava molto bene. Ci sembrava che ci fossero degli atteggiamenti prevaricatori nei confronti dei bambini, atteggiamenti non proprio, tra virgolette, educativi. E allora abbiamo iniziato a proporre questo progetto, inizialmente entrando nelle società, una psicologa e una educatrice, e cercare di capire quali erano le dinamiche con cui gli istruttori, gli allenatori facevano il loro mestiere, il loro lavoro, insomma, o se non lavoro, il loro volontariato, perché molti anche sono dei volontari. E insomma, dopo un anno di questa osservazione, ora noi non siamo onniscienti, chiaramente, siamo solo uomini, possiamo sbagliare anche nel giudicare, ma il nostro non voleva essere un giudizio, voleva semplicemente capire che tipo di dinamiche c'erano all'interno della società. Avevamo notato effettivamente una violenza verbale, prima di tutto, bambini che venivano esclusi dagli allenamenti, ma non solo non sto parlando solo di calcio, è di tutte le associazioni sportive, quindi parlo di calcio, di nuoto, di atletica, di ginnastica artistica, di basket, cioè erano tutte le associazioni che andavamo ad osservare, di ciclismo. Dunque, oltre a questa violenza verbale, chiaramente c'erano anche atteggiamenti che tendevano ad escludere i bambini, quelli un po' meno dotati, quelli un pochino più cicciottelli, quelli che rallentavano, quelli che insomma venivano un po' marginalizzati. E questo, scusate, ma qui passa un messaggio veramente antipatico e deleterio per i bambini: tu non sei capace a fare niente, tu sei un fallito. Questa parola, tra le altre cose, emerse anche in alcune situazioni. Laddove poi erano presenti i genitori agli allenamenti, apriti cielo e spalancati terra. Quindi oggettivamente si sottopose questa analisi alla nostra allora amministrazione comunale, e insieme decidemmo di spostare gli istruttori, cioè pur mantenendo il loro ruolo di istruttore nell'associazione, ma di entrare nelle scuole, cioè di andare in un luogo terzo, diverso da quello dell'associazione, per evitare queste regole associazionistiche dove si mira a vincere, vincere a tutti i costi, ecco, cioè spostare l'istruttore e portarlo in un luogo dove insieme a noi e insieme all'insegnante poteva diventare un luogo di divertimento, di svago, non solo, ma anche educativo, con giochi relazionali, dove non primeggiava l'uno a dispetto dell'altro, ma dove emergevano capacità e dove emergevano altre capacità che potevano essere potenziate in modi diversi. E così è stato, infatti. Quindi siamo nel 2018, quindi dopo un anno, per 7 anni questo progetto è stato portato nelle scuole elementari, le scuole primarie, 4ª e 5ª elementare. È stato veramente un'esperienza fantastica, perché abbiamo visto come anche gli insegnanti, che avevano una visione della loro classe in un luogo diverso dalla classe, con atteggiamenti diversi, quindi potevano avere una visione dei loro alunni molto più ampia, e quindi capire anche se l'alunno poteva essere potenziato in qualcosa o meno. Faccio un esempio: un bambino che a scuola rendeva poco, diciamo, studiava poco, in quello spazio che gli facemmo fare un gioco, particolarmente un gioco di attenzione e di memoria visiva, eccetera, questo bambino, cioè, riuscì a pieno, fece questo esercizio, nessuno se lo sarebbe immaginato. Quindi ecco, gli insegnanti in quel momento cominciarono ad osservare questo bambino con occhi diversi, e quindi ad avere un atteggiamento diverso da quello che avevano avuto, senza pregiudizievoli, senza, anche se gli insegnanti il pregiudizio non ce l'hanno, non ce lo dovrebbero avere, diciamo, non ce lo dovrebbero avere. Però ecco, iniziarono ad avere con lui atteggiamenti diversi, e quasi quasi questo bambino alla fine della scuola il libro in mano lo prendeva. Ecco l'importanza di questo progetto e sono rimasta piacevolmente sorpresa e anche con una punta di orgoglio, lasciatemelo dire, quando vi ricordate la notizia che vi ho dato prima dell'allenatore di Torino? Ecco, l'allenatore di Torino ha preteso e gli è stato concesso dall'amministrazione comunale lo psicologo in campo e un educatore in campo, perché l'allenatore con gli strumenti che ha oggi un allenatore non può stare attento a tutte quelle dinamiche che potrebbero essere deleterie per i bambini, soprattutto bambini di quell'età, bambini in crescita, bambini in divenire, quindi con i quali bisogna avere un atteggiamento di riguardo e un occhio particolarmente attento. Questo davvero mi ha fatto piacere, perché praticamente mi è detto che siamo stati, scusate, un po' di orgoglio, ancora i precursori di quello che probabilmente sarà il domani nel campo dello sport, e mi auguro che davvero venga seriamente preso in considerazione. I bambini piccoli, la mia opinione, i bambini piccoli non dovrebbero essere segnati nelle associazioni. L'amministrazione comunale dovrebbe tenere a cuore questo e fare un ambiente, una polisportiva dove i bambini possono accedere e fare quello che gli piace fare, certo gestito sempre da persone adulte, però se iscrivere un bambino a nuoto, iscrivere un bambino a calcio a quell'età, a 6 anni, che cosa vuol dire? Gli si preclude a questo bambino la possibilità poi di provare altri sport, altri giochi, incanalandolo solo ed esclusivamente su quello che probabilmente, non sempre, ma probabilmente è l'idea del genitore. Con questo chiudo e ci risentiamo il prossimo giovedì, a Dio piacendo. Vi auguro un buon fine settimana a tutti. Grazie.